Chiama Roberto. È di Lizzana? Sì. Precisamente, cioè, dove vive? Qua sotto le casotte, qua le come si chiamano? Il villaggio verde. Ah, ok. Villaggio verde. Da quant'è che abita a Lizzana? 2 anni. Le piace vivere qui a Lizzana? Ah sì, dai, più o meno, ma no. Ci sono dei rumori che le danno fastidio? Ma rumori? No, perché anche la zona industriale è, in pratica è silenziosa, non è? Ok. A Natale... Ma piacciono i botti. Più rumori fanno, è bello goderli. Quando vai fuori a vedere tutti i fuochi d'artificio sono belli. Che non gli piacciono, cioè gli fanno tanto rumore e allora danno un po' fastidio. No, perché quel momento lì è quella mezz'oretta che fanno i botti come l'ultimo dell'anno, è bello vederli. No. E anche farli. Grazie. Grazie. Prego. Mille, buona giornata. Prego. Allora sì, buon lavoro. Ciao. Ciao. Sì, andiamo a fare i cavoli.